perché lì più o meno c'è. Cosa c'è Sì, che moneta c'è? La pesetta, cosa c'è? I pesos. I pesos, ho capito. Sì, sì, sì. Vabbè. Ma la gente com'è lì? Ma veramente dormono sempre, come vediamo nei film, eccetera, che sono sempre lombardi, col cappello sugli occhi e dormendo. Assolutissimamente no. Mia moglie qua mi dice, non è assolutamente vero. Lavorano molto più di noi. Stanno sempre lavorando, questo bisogna dire. E la vita non costa niente, zero. Buono per loro, meglio così. No, perché io pensavo in medesima, no, quando ci sono i film, di western soprattutto, che mi piacciono molto, è vero sempre di solito, quando ci sono i messicani, sempre uno su un brie, grande come un ombrello sulla testa, si appoggiano a un muro o a un albero o qualcosa del genere, e sembra che dormano sempre, invece tu mi stai confermando che è tutto diverso. Vabbè, io sì, una cosa, la realtà è un'altra, chiaramente. Avanti, barra agricola. Se sa sceso. E magari è giù, e magari è in una posizione perché lui si sposta continuamente. In certi momenti lo sente forte, in certi altri lo sentiamo meno forte, perché come si sposta in campagna. Va bene, dai, andava bene. E allora riprende il servizio stasera, e oggi. Stasera si lavora di nuovo, ieri, oggi, e inizia a essere stanco, eh? Purtroppo, chi lavora è così, chi lavora è così, se dovessimo pretendere il riposo ne avremmo diritto per tanto, ma tanto tempo, solo che non si può fare, bisogna lavorare, dai, io ormai non lavoro più, sì, faccio qualcosa così quando mi capita, eccetera, soprattutto a casa, eccetera, per me. Ma ormai sono in pensione, sì che ho finito, diciamo così, la tribolazione, 60 anni di tribolazione ho fatto. E vabbè, adesso ti tocca, quando si va in pensione si dicono che si inizia a vivere, meglio così. Se non ci si annoia anche, sì, ci sono dei momenti di noia, ma molti, perché ti trovi così, non sai cosa va. Vabbè, comunque ci vuole, la pensione ci vuole, perché non è che si può lavorare sino alla morte, ci mancherebbe. Andare così, non ci sono problemi. Pensate a sentirsi bene, quello è importantissimo, perché sennò la pensione sarebbe una brutta cosa se uno si sentisse male, per carità. Invece se si sente bene, tranquillo e pacifico, va avanti sino a che vive. E si vuole quelle poche lire, o meglio quelle poche euro che lo Stato ti passa. Avanti! Buonasera a tutti, doppio rom, cambio! E perché sei così? Dove stai andando in macchina a questo tempo? Corri a casa, vai! Mi sono andato a accompagnare mio figlio al quadrato, che c'era l'appuntamento e doveva andare alla festa di un suo compagno di scuola. C'era l'appuntamento lì e sono andato a accompagnare, cioè mi sono fermato 5 minuti, ho sentito il buio, ho detto mi fermo, non sono una ceramitata. E dunque sia il quadrato. Cappa. Medesimo, che sono io il più forte, il più grande, il più bello, il più simpatico. E insieme a Salvatore barra agricola. E chi sei tu, Modestino? Io sono Don Tonino. Avanti Giulio, buonasera. Ciao ciao. C'è qualche festa per i bambini, qualche spettacolo, cosa c'è? Di giochi, cosa c'è lì al quadrato? C'era l'appuntamento perché questo suo compagno di scuola compie gli anni e abitano nella strada di Osimo, che è una strada nuova di Osimo, che poi bisogna entrare in strade sterrate, eccetera, eccetera. Io non sapevo dove abitava, come altri genitori, e quindi la mamma di questo bambino è venuta cortesemente per prenderli. È venuta con una macchina, con un Land Rover, col figlio pure, quindi hanno caricato tutti i bambini e poi sono partiti, capito? Ho capito, sì, beh, certo, ha fatto una cosa saggia quella donna, va benissimo così, ci devono pensare a dare un attimo di gioia ai bambini, ci mancherebbe altro. E va bene, dai, le prendi Eugenio. Gloria, hai ragione, fra un po' è il compleanno di mio figlio. Anche lui, 18 anni, lui. Cioè sono belli 18 anni, ha tutta la vita davanti, dunque. 18 anni, con 11 anni, ancora più piccolo, quando ho 12 anni. Mentre invece io, mia figlia ne ha 38, dunque. Sono parecchi in più, no? Ciao Gala, non dimentichiamoci che qui ne ho una di 21, eh. E anch'io, ne ho avuto anche molto di meno di 21. Non credo che io sia nato direttamente a 70 anni, no? No, sono nato piccolino anch'io. E tu oggi, direttamente grande sei nato? Una di 21. Vabbè, certo, lo so. Lo so già, anche lì ormai signorina, sì che... sono problemi, interessante essere sempre sani e tranquilli, poi per il resto non ha importanza. Lasciamo la stare dove è e la prendiamo come viene. Io non credo, è come volano, cassettina. Io mi sono trovato che avevo 29 anni, nel 71, che ti puoi immaginare quanti anni sono passati, tanti. Quando ho conosciuto mia moglie, lei aveva appena 14 anni, ti puoi immaginare. E siamo sempre insieme, a differenza di quanti, di come fanno le coppie oggi, già. Che dopo che si sposano si separano. Perché non c'è più tolleranza. Penso che non ci sia più tolleranza per lavarsi. E subito il piatto della minestra per raffreddare. Ma era una cosa allucinante. Sì, beh, indubbiamente le mamme di prima erano diverse da quelle di oggi. Oggi in un certo senso, senza offendere a nessuno, ma la maggior parte delle mamme di oggi sono meno freghiste, perché abbandonano i figli così, li mandano allo sbaraglio e soprattutto mandano a monte anche i matrimoni, ma questo succede anche da parte degli uomini, non solamente da parte delle donne. Oggi c'è meno testa, ecco, definiamolo in questa maniera. Va bene così lo stesso, non ce ne frega niente. Avanti oggi. Attento al Mattarello, mio G, attento che dietro c'è il Mattarello, non si sa mai. Non vogliamo portarsi a quei livelli del Mattarello, o mio G. Quel giorno ho acceso per caso il televisore e c'era Forum. E c'era questa tipa che aveva lasciato il figlio dentro la macchina con il finestrino semi aperto, appena chiamato il carabinieri. Beh, fatto sa che questa qui ha avuto il coraggio di denunciarla perché aveva tolto il bambino fuori dalla macchina, non si doveva permettere. Già l'ho seguita quel dibattimento, già l'ho seguita. Ce l'ho seguita anch'io già. Sì, l'ha portata a bar per comprargli la bibita o qualcosa del genere. Intanto il giudice l'ha condannata quella donna. Quella ha pensato di fare un'opera buona. Intanto l'ha condannata a pagare 2.000 euro. L'ha condannata. E quella è una madre snaturata. Solo che quell'altra donna che ha visto un bambino che piangeva è stata un pochino imprudente. Perché se io dovessi vedere una cosa del genere, cosa faccio? Faccio subito 112 e faccio arrivare i carabinieri, i vigili urbani, chi sia della legge. Non è che puoi prendere i tuoi bambini e ti riporti così, praticamente quello equivale quasi a un sequestro, anche se le intenzioni di quella donna erano tutt'altro, non era certamente l'intenzionata a sequestrare i bambini. Ha sbagliato anche lì. Ma è bello questo, che voleva 50.000 euro, voleva quella lì, per lo spavento dice che aveva preso. Vabbè, si dovrà accontentare solo di 2.000 euro, però si dovrebbe fare anche un esame di coscienza con la madre lì, abbandonare i bambini così in macchina. E lì, non può pensare una donna distratto se stavo facendo una corsa. Non è possibile, chi non li vuole non li faccia. Al marito il nodo si fa e non succede niente, capito? Se uno li fa lo deve sentire, se no niente, si prendono le precauzioni, siamo nel 2013. A parte mia, Giulio, è più snaturata la madre che l'ha abbandonato di quella che ha, fa- che ha avuto l'istinto di mamma proprio di proteggerlo, eh. Beh sì, e cosa vuoi fare, Ugia? D'altronde, purtroppo, ripeto, ci sono queste persone, ma dov'è il giudizio di una persona adulta, di una mamma, ragazza, con mamma di tre figli, perché ne aveva tre questa di figli, abbandonare i figli in macchina, ma non si, si abbandona nemmeno un animale, si abbandona, non solo di abbandonare i figli, ma nemmeno un cane si abbandona in macchina, perché c'è la... c'è la penale anche per quello, eppure lo fanno, boh, io non capisco, che assettina. Una volta gli anziani, sai cosa dicevo? Già, ma ti immagini, chissà venne, hanno fatto una sua faravigliosa della buese della lampada in carriera, della lampada, per non dire la frase giusta, capito? Sì, sì, è così, è così. Ma se mai sento tutti i colori in quel forno, infatti molte volte non lo ascolto nemmeno perché mi fa venire nervoso certe cose, che non posso intervenire io a dire quello che pensa, te l'immagini? Mi fa venire nervoso quando sento di certe cose, di eredità, di cose che si scannano, la cosa che odio di più è quella, io odio proprio le eredità perché rovinano le famiglie. Purtroppo è così. Una volta si diceva, i soldi hanno tolto gli occhi a Santa Lucia, che è la Madonna degli occhi. Purtroppo così già, guarda l'interesse, la verità della gente è talmente radicata nella mente delle persone che non si potrà mai debellare nella maniera più assoluta. Quando c'è eredità c'è sempre malumore, sempre, o meglio c'è sempre da bisticciare, da farsi. Purtroppo è così. Beh, cosa vuoi fare? Pazienza. Ce ne sono tanti, insomma, questi che vanno lì a città, 10 anni magari fidanzati, si sposano 15 giorni e si separano. E poi la ragione ce l'ha sempre la donna, no? Visto considerato che è la parte più debole, soprattutto quando ci sono figli, la casa viene assegnata alla donna, viene assegnata. E il mantenimento ce l'ha la donna, perché l'uomo è quello che magari lavora, eccetera, eccetera. Poi cosa succede? Devi mantenere una donna che non è più con te. Lasciamo stare il discorso fisso, ci sono i figli, giusto che il padre contribuisca, cioè che li mantenga, ma ci sono tante coppie che non hanno figli, si separano e la donna pretende il mantenimento. Io non so sino a che punto possa avere ragione la donna a quel punto, perché ha la casa e oltre a quello anche il mantenimento. Succede pure che conosce un altro uomo, si mette insieme, non si sposa e convivono. Sicché poi con i soldi del marito, quello vero, quello che lei ha sposato, vive sia lui che lei, tutti insieme, nella casa del marito. Succede anche questo già, sono leggi assurde. Sì, ma piano piano le leggi stanno cambiando, non è più esattamente così, ma è un casino. Quando l'uomo si trova di colpo così, di punto in bianco, sta in mezzo alla strada, perché se tu hai uno stipendio, ti faccio un conto, uno stipendio di 1300 euro da operaio, diciamo, devi dare i soldi per i figli, i soldi per la moglie, pagarti l'affitto della casa e non lo devi mai a campare. Appunto, l'uomo non avrà più modo di rifarsi una vita, mentre invece la moglie in quel caso lì gode, perché gode per il semplice motivo che con i soldi del mantenimento che gli passa il marito, poi si ricostruisce con l'amante, perché solo di amante si tratta, anche se devo dire che è un convivente praticamente, perché è intelligente, non si sposa e allora non sposandosi non perde il mantenimento. Ecco qua il discorso. Ma praticamente l'uomo è quello che ci prende sempre. Avanti, Eugene. Vabbè, io ho due figli dal matrimonio precedente. Mi ha lasciato dopo due giorni. Figurati. E tu te li stai mantenendo i figli. E lei sta facendo una bella vita, magari, no? A me tocca passare €1.800 al mese. Figurati. E niente ti sembra. Non lo so, io. Ma non cambieranno le leggi, non lo so. Purtroppo è così. Purtroppo è così, Eugene. Cosa vuoi che ti dica? Scusate, buonasera. Cosa ha fatto oggi? Dopo due giorni avere due figli? Dopo due giorni hai detto che ti ha lasciato. Cosa ha fatto avere due figli? Dopo due giorni ci siamo sposati, i figli ce li avevamo già. Angelo si chiamava, ho capito, ho capito. Ebbene, no, come mai non lo vedevate prima di sposarti? Eravamo ciechi. Sta scherzando, non è vero. E se vai a crano a me, sta cosa? E vai a crano a me. E vabbè, sarà crano per lui, cioè, nel senso che non è vero, ha voluto fare una battuta e va bene così, non ci sono problemi. Però lui, guarda che c'è proprio gente che vive su queste cose qua, nel senso che è successo a tanta gente che dopo pochi giorni si sono separati, magari sono stati 10 anni insieme, convivendo, quando hanno deciso di sposarsi, proprio di regolarizzare tutto con un matrimonio, si sono separati veramente, e c'è gente che in questa situazione si trova veramente lui. Allora, lo so Giulio, io lo so che c'avevo qualche amico che si era sposato, si è sposato, per fortuna avevano figli, lui è andato a lavorare fuori per fare un bel po' di soldi per comprarsi, per pagarsi la casa, così dice me ne faccio 3-4 anni fuori, all'estero, ho fatto un lavoro buono, e niente, mandava i soldi, faceva versare alla moglie che era sposato. Questa moglie cosa faceva? Lui è stato più di un anno, quasi un anno a venire qui in Sardegna, hai capito? E tutti i soldi che ha mandato alla moglie, quando è tornato i soldi la moglie se l'aveva tutti, si è fatto l'amante, di tutto ci aveva, e poi gli hanno detto, non so, le fatte gli amici, guarda che tua moglie così, lui sta spassando ogni notte, giro qua e là, capito? È tornato lui dopo quasi un anno, 8 mesi mi pare, è uno dei produttori di questo qua, no? È tornato e si è trovato senza soldi, e poi gli stava speso tutto, e la moglie con l'amante, capito Giulio? Sì, perché noi produttori siamo tutte persone serie. Il vostro nome, perché era un carissimo amico mio, capito? Era un carissimo amico mio, non faccio nomi, è di produttore di questo qua. E questa storia è di diversi anni, che erano... E nei primi anni me l'ho sposato io, si era sposato anche lui, eravamo tutti una greffa, capito? E lui, tutti sapevano di questo, e lui era un bravissimo ragazzo, veramente, andato a lavorare fuori, e lì se andava a Pazza Gioia la notte, capito? E si è divertito e si è mangiato tutti i soldi. Purtroppo ci sono queste persone qua, cosa vuoi che ti dica? Più disonesti di così penso che non si possa essere. Sì, no, ma oggi sembra quasi una moda nella città. Si sposano e poi, dopo un po' di tempo, addirittura anche dopo pochi giorni, si separano. A quel punto lì, l'uomo fregato, perché gli devi dare un mantenimento. Se ci sono figli specialmente. Voi magari se avete comprato la casa insieme, state pagando un mutuo e devi pagare un mutuo, perché la casa rimane alla moglie, non ci sono dubbi. Nel frattempo lei trova un amante, convive, si diverte e si mangia il denaro del marito, del vero marito, di quello che ha sposato. Sì che ti puoi immaginare, succede così. Ma non cambieranno le leggi, che ne so, io lo auguro a tutti gli uomini che si separano, che non si trovano in questa situazione, perché di solito così la donna è considerata la parte debole, invece in realtà alle volte è quella più forte, anzi più delle volte è quella parte più forte di un matrimonio. Vabbè, avanti già. Ne conosco anche io uno, lui così, che è partito fuori lo stesso per pagarsi la casa quanto ho fatto la moglie con la mano. E questo ho fatto questa cosa, però non aveva figli per fortuna, perché non ne ha avuto tempo, perché era fuori, hai capito? E niente, in poche parole è tornato e trovato senza soldi, però lui è ripartito a lavorare, però la moglie niente conto, ormai ci aveva tanti testimoni, tante cose, e niente, non gli ha dato proprio un bel niente, si è separato subito dalla moglie, ma forse non ha avuto neanche faccia di chiedere nulla di più, capito, proprio non ha avuto, dal giorno è tornato, come è arrivato, è mollato, è separato con la moglie, era un anno sposato, due mesi che sono stati assieme qua, a Porto Torres, e 8 mesi fuori, lui, in 8 mesi lei si è spassato tutti i soldi che guadagnava il marito ogni mese, e guadagnava un bel soldo, lei se ne faceva con gli altri uomini, se spendeva, capito, e non se ne fregava proprio di niente. Per marito non c'erano soldi, capito? Nulla, tutti i soldi erano spariti, erano tutti consumati lì, tutti spesi, capito? Tutti spesi. Qui che ci vuole coraggio, non avere un po' di buon senso, se ne sento tutti rigorosi. Lo so, questo è successo nel fare nell'80, quel periodo lì, nell'80 è successo, non ricordo lo sposino, ero sposato. Amici, uscivamo tutta una greppa che uscivamo assieme, capito? Era una greppa che uscivamo assieme. E quando erano fidanzati erano amore, amore, amore. Poi si è sposato e niente, una volta si è sposato, noi siamo andati, abbiamo fatto il regalo, non ricordo ancora tutte queste cose con mia moglie. E 2 mesi, è stato lì, è partito a lavorare fuori, è stato 8 mesi lì lavorando non è una rabbia, non lo so, comunque prendiamo un sacco di soldi al mese, tutto perché lì era pesato di tutti, i soldi non gli servivano e mandava tutto, l'accreditavano tutto qua in Sardegna, a Porto Torres, e la moglie ci ha pensato lì a sistemare tutto, a farsi una bella vita, capito? E si è mangiato tutto, e in un anno è finito tutto, in un anno forse sono mollati, lui si è tornato a lavorare là e niente, e ti dico una cosa, non ho più saputo niente di lui, lei so che ha fatto fine brutta, proprio fine brutta, e di lui non ho più saputo niente. Beh, è ciò che si meritava, ma non se lo meritava il marito, quello è quello il problema, purtroppo è così. Oh, lo stesso discorso vale se dovessimo parlare ad esempio di qualche figlio grande, addirittura a 40 anni, 45 anni, che effettiva, che non ha lavoro, questo, e deve sempre mantenere il padre, magari il padre è un povero pensionato che prende anche una vigilia, lo deve mantenere, e lui magari non ha avuto mai il coraggio, o meglio, il pensiero di andare a cercare un lavoro per mantenersi da solo, anche quella è una cosa brutta, ma quando mai, che un uomo di 40 anni debba essere ancora mantenuto dai genitori, non è possibile nella maniera più assoluta. Io posso capire, uno è malato, è già diverso, ma che un uomo a 40 anni, a 45 anni, se ne va fuori magari dall'Italia, se ne va all'estero, poi rientra e si vuole mantenuto dai genitori. E lo obbligano, perché? Perché i genitori sono costretti per legge a mantenere i familiari che sono in difficoltà. Cioè, se uno è in difficoltà a 40 anni, che non si sa difendere da solo, figuriamoci allora un padre che ne ha 60-70 e che prende una pensioncina da niente. Guarda, sono delle leggi assurde, ma veramente assurde. Purtroppo è così. E vabbè, oggi... Bene ragazzi, siamo in Italia. Sono sempre i soldi per vivere, quelli giusti per vivere tutto il mese, quelli c'ho solo. Non ci sono riuscito a diventare ricco e c'ho un presentimento che non ci riuscirò più a diventare ricco. Avevo un sogno di diventare ricco, ma negli anni passati, ma mi pare di no, e quel sogno è andato in fumo, perché sto sempre diventando più povero, non più ricco, più povero oggi. Mi sa che dobbiamo dire grazie allo Stato che c'è. E lui te l'ha detto, bravo, buongiorno, buongiorno, chi è questo? Ehi Paolo, ciao Paolo, vedi uno che lavora che... è stato il sabato, ma allora... imbarchiamo ci mettiamo più tempo, però li imbarchiamo come li imbarcano loro. Però noi, io personalmente, non faccio danno, capito? Invece loro se ne fottono e strisciano le gomme col carrello bloccato perché lo vogliono bloccato, e non se ne non frega niente di spaccare le gomme, le spaccano il bull, spara urti quello che capita, non ne frega proprio niente. Invece noi lo facciamo piano per non fare danno, invece siete giubilevoli, imbarchendi, fare addosso, capaci di sia, tra, canzendi, vendi e frazzendi, e non se ne frega, non gli frega niente. Loro fanno così per fare. Portuali che c'erano a volte erano dottrini. e riuscivano a mettere il dentro. Cosa stai dicendo? Noi gli autotreni li mettiamo dentro con la timoniera snodabile. A voi che rimbarchiamo e rimorchi con la timoniera snodabile. Sì, ma te l'attacca da un'altra con trattore. Non attacchi con la motrice, no? Attacca con la motrice a vedere dove la riposa. Mi pare Penna Bianca, c'è lui, Paoletto Penna Bianca, mi fa. No, non è Penna Bianca, questo è un altro Paoletto, eh. Un altro Paoletto, Scuderia Leoni. Vabbè, Paoletto comunque. Si accorta che era morto nel letto, immaginaci, 40 anni. Avete già avuto infatti. Sia per il bus. Comunque stavo bevendo birra, ho visto che però sembra che stava bene, non lo so, e poi invece si è andata a casa sua, invece non si sentiva tanto bene, si sentiva strano e al momento non c'era nessuno a casa sua, deve essere, perché io alle 6:15 l'ho visto, che non 20:15 l'ho visto io, l'ho visto proprio che stava andando al negozio e l'ho visto. E intorno alle 7:30 la madre come è rientrata col padre, era provata a chiamarla, non rispondeva, l'ha mosso e era morto nel letto, per il macchio. Tu sei abitato da che congestione? E rifaranno, adesso penso che rifaranno lo cose e si fa fare che è morto e morto. Ma era sano questo tipo? Chi era? Davide, quello che mi ha preso l'assicurazione 750.000 euro. Davide, ma lì? È positivo, Che se aveva speso tutto in tipo là non va via più si compra anche in busciacca. Ci aveva avuto gli asili come che si era salvato la vita, era rimasto zoppo e era riuscito a fare solamente da questi soldi, è riuscito a fare intervento al piede e era riuscito a drizzarselo, capito? Era riuscito a drizzarsi solo il piede, poi si aveva fatto un bel fuori strada, le cose, però si è venduto, da magazzinare, si è venduto tutto, fuori strada, casa, appartamento, aveva pigliato tutto, ma si è venduto, ed è rimasto, è riuscito a comprarsi questo scooter seconda mano e si è da soldi. Proprio perché non ho preso pure la pensione, gli davano di 250 euro perché era zoppo, adesso poteva camminare, se poteva permettere gli hanno tolto la pensione e è rimasto senza denaro. La storia. Si è fatto fuori allora ha preso l'assicurazione di questa storia dopo anni e anni e anni, ha dato 750.000 euro. Un bel somme. Ha detto che sento la regala di subito alla Buccato. Che l'ha fatta lì, mi se ne ha regalato 100.000 euro, ma chi ha boccato perché è stato pure in nero, a chi l'ha dato in nero. E poi non sono pigliato che abbia comprato il appartamento, ci ha comprato il fuoristrada e è iniziata una bella vita, con donne, tutti gli stranieri, tutte in macchina, dice la via la mia macchina viene, che vuoi entrare viene piena di queste straniere. Ogni giorno in giro con queste qua. Questa è la mia vita. Boh, è fatto giuro. Beh, non lo sai, così. Sì. Andando in giro di vicinanza. Siamo arrivati a un capo, è un servizio di una farfalla, che non mai uno ne fa così, boh. Vabbè, purtroppo penso che semplicemente uno che non fa il capo, non è possibile. Quando nella sfortuna dell'incidente ha avuto la fortuna e poi sarà giocata così, con un capo da farfalla, d'altronde cosa vuoi fare? Vai, grazie. Che stavate andando a cestare a scaricare lui? Va bene, Paolo, mi sembra che hai detto che stai andando a caricare. Avanti, Graziano. Io ne conosco, ma te c'è un altro, su 5, che era sempre vicino all'ospedale, in quella zona lì, alle semafori di Mandenni. Chi se non so quanti di là ha ereditato dalle familiari, vuole a casa, di Giusso, terreni. Tutti da mangiato con questi femmini, rumene, polacche, avanti domandando alle semafore e non va nulla, dentro me da Santo Brito, figurati, e alle semafore domandando, tu se vai lì più avanti il professor Corto lo trovi sempre lì. Io vi domando lì, ma dite Massone, bisogna avere compassioni oppure bisogna dire che altro è imbecille? Ma non è bisogna dire che altro è stato imbecille la vita, ma che non è possibile, perché uno si debba rovinare con questo comportamento, quelli da scelerate, ma chi se sono i Massone scelerate, non sono Massone un giudizio, oia, vabbè, comunque, meglio avanti, avanti oggi. Ok, oggi. Va bene così. Lui, purtroppo ci sono questi elementi che hanno un comportamento così completamente sbagliato, è un concetto della vita assurdo, perché non è possibile, uno ha la fortuna di avere qualche soldino, ti mette da parte, cioè ti metti, diciamo così, non c'è niente da fare, te ne spieghi per i cuori di soldi, ma non è possibile. Chi ci manda un capo, un milione, 2 milioni di una farfalla. Positivo, positivo, fuori strada, e va bene, si è comprato una bella macchina per il Regge Rover da Zigiano, e va bene, ci sta bene, cazzo l'appartamento va bene, ma vivo da mia madre, cosa ne faccio di questo appartamento? E poi ha iniziato a regalare soldi a queste qua, a mandare il paese di queste qua, ma tanto l'hanno finito di narici, l'hanno mollato, come un coso, invece lì lui se le portava, loro erano tutte lì. E forza, perché ci guadagnavano solo, la macchina piena, per farsi a vedere un ristorante di femminili straniere. Un anno li ha fatti fuori, è rimasto senza soldi un anno, senza soldi ha costato a venire fuori strada, ha venduto una casa, e poi se l'ha comprato tutto, l'ha fatto, poi si è fatto fuori a tutto. Sapete i bambini da pay, come ti fasciare, con quei soldi lì lui, va bene. 100.000 euro, 100.000 euro di sottruppe che avevo cazzo per arrigarti, e ne sono rimasti 350, e 50.000 euro aveva pagato questa macchina, sono di più puro, e la casa non so con quanto, però poi tutta la rimanenza te la, in un anno si è fatti fuori, si è venduto la pure strada, si è venduto la casa, fa vendinare, la casa della mamma, vivia dalla mamma, e niente, e le di puristi direttamente a casa, venite per strada e vi do domande, le macchiappini, e ti ha tirato il tuo scooter, usato seconda mano, da poco mi verrà via il tuo scooter, questo tutto sta con palazzo, lui, cioè, diciamo che non ha fatto bene a sperperare, a fare, però in previsione, diciamo, che della vita che ha fatto, che è morto, l'avrebbe lasciati agli altri, almeno ce l'ha ricordati. Non l'avrebbe lasciati ai genitori, avresti fatto qualcosa ai genitori, mannaggia la miseria. Invece, insomma, avrebbe fatto stare bene una sorella, Gianni, che è sposata, avrebbe fatto stare bene i genitori. Tuo papà è stato uno sgobbone, un lavoratore, io lo conosco una vita, il padre lo conosco, lavorava alla cacestruzzi lì a Sassari, era un autista della cacestruzzi, portava gli inerti, era un autista che portava la ghiaia, la cosa, a volte con le pettorine, ma più che altro con quel mezzo d'opera che portava la ghiaia da chi si cavia, ha lavorato una vita a quell'uomo, un uomo onesto, proprio di tutto per la casa, un uomo che è molto riservato, non anda né a ribar, né a ricose, non fa visi, né fuma, né pizzi, è un uomo molto riservato, anche lui la moglie, sono delle persone molto riservate, molto... Tutto per la casa loro, lavoro, tutto, non era una persona streccona che andava in giro e cose, cioè, nulla, andava nelle barre come si fanno tanti, nulla, ne fumava, partitemi, non ne fumava, era una persona molto, molto, molto tranquilla, molto cosa, capito? E purtroppo ha avuto la carogna, la sfortuna di questo figlio che ha avuto questo incidente, e purtroppo l'altro che era con lui era morto in macchina, e i genitori di quell'altro ragazzo davano la colpa a lui, perché erano sicuri al 99% che la macchina stava guidando lui, e fuori strada è uscito lui, ammazzando il figlio di quelli là. Invece lui diceva che non era così, che stava guidando il figlio, che lui era seduto a fianco, perché nell'incidente sono usciti fuori la macchina tutti e due, capito? Lì a vivo di Silico. L'altro è morto sul corpo e questo è rimasto rovinato, aveva una gamba rovinata, è rimasto in coma per tanti... per un paio di mesi era in coma, si era salvato per miracolo, capito? E erano sempre in causa con i genitori di quello là, capito? Che secondo lui il figlio aveva ammazzato questo qua, la macchina stava guidando lui, capito? E lì avevano trattato a lunga con l'assicurazione, la madre che gli pagava tutte le visite, tutte le cose di questi genitori di questo ragazzo, no? Per anni e anni viveva, lo spesavano la mamma e il padre a questo ragazzo, e poi Dino gli ha dato questi insulti, e però si è fatto andare male subito, troppo subito l'ha fatto andare male, non lo saputi amministrare, e invece si avrebbe comprato un po' di case, avrebbe campato una vita tranquillo dagli affitti. Ma non lo so, già avrebbe un appartamento suo, ci dice c'era il padre, c'era l'altra sorella, c'era la casa, e viveva, lui dice là non ci vivo da solo, vivo da mia madre, capito, c'era questo appartamento, aveva buttato un po' i pemenacci, non lo so, però poi se l'ha venduto per farsi dei soldi, però in poche parole... Cioè, in poche parole se la spesi subito lo stesso questo soldi, capito? Adesso è morto, non si sa di cosa è morto, comunque è morto dopo un anno che si è mangiato di più, pure un anno e mezzo si è mangiato tutto, dai. Oh, ciao a tutti, che non mi sono reso conto che era tardi, non era un buono. Ciao a tutti, ciao. Gi, quando ti serve una mano a fare mano, per chiamami, ciao ciao. Ciao Gi. Grazie, ciao a te. Allora Gi, ci sentiamo, ciao. Ciao Eugenio, mi non mi si curi lo rimorchio a Muglio. Ciao, fai il possibile, dai, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao G. Una scena. Non sarà la paga di Gesù Cristo, Gigi. Positivo, la vera che ho messo vito di nuovo il braccio santo, signor Urto mi chiama, signor Urto, un uomo, certo, c'è un anno di 80 anni quell'uomo lì. Signor Urto Nacchi, non ben adatto come te signor Urto, era un punto brutto, la discesa brutta e stretta, giusto giusto, dentro questo capannone c'è il traffico là, con l'articolato, ma c'è dietro lì una discesona già in cemento, ma ripida gatto, se sbagliavi il fregato, ma ci passavi giusto giusto. Ci andavo sempre io, mai ho sbagliato una manovra, sempre bene me la dà. Ci andava qualche altra autista e facevano danno, si agganciava al capannone, un sacco di danno li faceva. E questo raccomandava, signor Urto, e mi regalava sempre l'acqua fitta, il vino, quest'uomo. Sempre a me voleva lì, perché dice gli altri facevano sempre danno. E così alla Ecom a Porto Torres, quella manovra lì è un beneficio, poi con il traffico che c'è è un casino, le macchine che vedono l'autotreno che sta passando, molte volte mi metto io per bloccare il traffico, per farlo passare, fargli fare manovra, a chi le macchine vede che l'autotreno si muovendo, intanto li passano dietro. Lo so, e purtroppo è così. Vabbè, ci vuole esperienza e poi una volta che c'è l'esperienza c'è l'occhio e tutto va bene, ogni lavoro è quello, è così, tutti i lavori sono così, capito? All'inizio giustamente ti viene più come una volta che c'è l'esperienza nella mano è un gioco farlo, hai capito? Anche entrare dentro la nave, e uno che c'entra una volta ogni tanto è diverso, uno che c'entra, che deve entrare prima che tutti i momenti fa quel lavoro lì, abituato a fare quello lì e via, capito? Adesso un genio, non è che non sia, è bravo perché fa quel lavoro lì a entrare, però lui non ha avuto mai un'esperienza di fare, di condurre un mezzo sopra la strada a viaggiare, capito? Lui l'ha fatto sempre lì dentro il porto a mettere dentro il rimorchi ma c'è dietro, hai capito? Giustamente uno è bravo a fare quello lì, però a viaggiare è diversa la cosa, è molto diversa, ci vuole altri tipi di esperienze, capito? Ma diversamente sono altre esperienze diverse, come affrontare una discesa, come tante cose ci sono, capito? Tante cose che ti fa con gli anni l'esperienza. E le strade innevate, ghiaccio, questo e quell'altro, e poco mi ci dicevo. Per dire, è tutta una cosa diversa, non è camminare dentro di fuori, essere lì, fare quelle manovre lì, agganci, sono sempre le stesse manovre, capito? Sono sempre le stesse cose, capito? Ma tutto ci vuole più attenzione su strada, è ovvio, devi guardare da tutte le parti, dall'alto, dal basso, e da destra, da sinistra, e da avanti e da dietro, ma chi ti dice, è tutti quanti le macchie dell'incidente, non è come appunto parcheggiare lì all'imbarco, lo so, indubbiamente, poi specialmente con un mezzo così grande, ui. Ma lui tu lo sai benissimo, è come tutti i mestieri, no? Ci sono quelle persone più brave, ci sono quelle meno brave, dappertutto succede, sarà sempre così. Va bene, io addirittura un giorno, una volta mi hanno detto un amico che faceva il camionista, allora, forse lo conosci anche, guarda, il padre di, come si chiama, di Raimondo. secondo, guarda che gli avevano ritirato la patente perché aveva avuto un incidente, eccetera, no? Adesso sta facendo, il motocarrista sta facendo. Avevano detto che una volta entrati in una strada, entrati, era talmente stretta questa strada, che andando e stringendo, e a un certo momento la città si è incagliato fra i muri e non riesce a biascinni. Non potevo uscire, andare né avanti né indietro. Anche quello conta, per dire, no, l'autista deve sapere, conoscere tutte queste cose, tutti questi particolari, perché se no, ui, riprendi lui. Che già lo conosco, facciamo il pare, conosco Raimondo, la sai cos'è il problema, Giulio? Perché è bravo, viene anche un bravo autista Raimondo, però lo fregava da mattina presto l'alcol, capito? Dalla mattina presto dalle 5 lui iniziava a bere, iniziava la campomera e invece prende il suo caffè, non beveva caffè, lui prendeva il cognac o una grappa, già lo mandato e c'entriamo caffè, come da mandare un ghizzo alle 5, quello che l'ha fregato a Remo, capito Giulio? Già lo so, no, ma ancora adesso è così, lui passa almeno 3-4 ore della giornata li passa lì al bar, lì al bar di via Petromica, all'angolo di via Petromica, lì con gli amici civili. E lui la prima cosa che fa è sempre alcol, sempre alcol, sempre cognac, che la mandano qui dalle 8 del mattino. Io quando arrivavo lì andavo magari e c'era già lui, già col bicchierino, io ho fatto un po' di remo, come fa un autista adesso a avere sempre la mente annebbiata dall'alcol, no, non è possibile. Infatti ha fatto, alla fine gli ha fatto, perché prima faceva l'autista, lavorava sotto la dipendenza di un altro ed era tranquillo, invece adesso ha questa motoretta, va a tagliare alberi, va a portare le campagne, magari va anche a rovinarle perché non è il suo lavoro, perché non so sino a che punto sia bravo portando gli alberi e facendo queste cose qua, andasse a caprare un bicio, queste cose, quando le danno qualcosa va, si ricarica e magari si riporta e subito lo guarda, no, non va bene così, no, non va bene, quelli sono visti assurdi, no, il padre non era quello, il padre non beveva mai, il padre nella maniera, intanto un signore padre, tonto e un bel, questo sì d'accordo, però molto educato, la verità, questo mi viene riconosciuto, vabbè, comunque, grazie ancora così. Chissà cosa ha già tutti gli ubbidienti, a Manganiri, a Primacchitto, cazzo, gli anni a Bocque, e poi venne un caffè macchiato, e io, un Anice, Sambuca, Vecchia Romagna, GB, a Manganiri, cazzo, ma che mai quanti fai? Ad andare lì si ha un dollaro. Cosa? Infatti, io sono andato tutti in una mala che si chiede, con i fiori che erano così. A fare, vedi, pare le tante di questi barboni. Grazie, lo sai che lo babbo con la sariglia? Sai come te lo chiamavamo noi, era conosciuto per Marlon Brando, veramente Marlon Brando. Sì, era una che non l'ha più, ma sempre vivo. Sì, sì, e Giulio forse è la vizzina, mi pare che sia vizzina un negozio tuo in Chivi, vero Giulio? Di fronte, ho 84 anni, sì, già è vivo, sì, oh, già è vivo, no, padre è tutta un'altra cosa però, non ho mai bevuto al massimo un bello caffè, ma figlio che si è preso il vizio di bere, tanto è vero anche ultimamente, era conviveva con una ragazza e poi lei l'ha lasciato perché non è stato possibile disabituarlo da bene, capito? Ancora prima di quella ne avevo un'altra, ne aveva, che è stata per anni, esatto, e ha avuto anche una figlia con quell'altra prima, anche se era una separata, però viveva con questa, viveva e ha vissuto per anni, si è fatto una figlia, infatti una figlia che oggi avrà, io penso, 11 anni avrà. E si era separata anche da quella. Poi si è messo con un'altra ragazza, si è messo, è stata un po' di anni, si 6 o 7 anni con quest'altra, e anche quella adesso non ha potuto fare a meno di lasciarlo perché non ne poteva più, sempre con un gabbo mi dà un vango, ho capito, no, non era possibile, lui non era possibile, purtroppo il viso del lei è bruttissimo. Giovane mio, avrà 50 anni, avrai molto, non è un po' sciupato, ma è giovane mio, noi così in mano, avrà una cinquantina d'anni mio. Tu lo sapete il babbo di mamma mia, mi hanno pranto? Già l'avevo saputo, sì, quello sì, però è tutta un'altra storia, non sembra nemmeno il figlio di quell'uomo, figurati, non sembra nemmeno il figlio, anche la madre era una bravissima donna, era ormai morta da anni, io li ho conosciuti per tantissimi anni, ti puoi immaginare, 45 anni di fronte l'uno all'altro, sì che li ho conosciuti bene, li ho conosciuti, la famiglia come se ne è per me, indubbiamente, oh, anche lui è bravo, mi non fa niente di male, però il vizio di bene non se lo lascia, non se lo può lasciare assolutamente. Sì, no, io la conosco bene a Raimondo, dai. Lui la conoscevo il padre, poi si è conosciuto a lui, ma mi è capitato che niente la mattina tante volte perché ha lavorato pure a qualche tipo di lavoro dal porto, mi ha caricato anche al porto dal porto, è stato una volta, è stato con Dazzara, è riuscito a entrare con Dazzara, poi con Dazzara è entrato con l'unica, quello di Diossi. Però il problema era quello di bere, anche il giorno c'era il principale, l'unica, mi veramente quella Pietro, siamo fermati a prendere il caffè, finiamoci il caffè, tutti che il cappuccino che l'ha fatta è lui che ha avuto un baby, una vecchia Romagna, ma all'inizio di Manzano, ma io cavolo, alle 5 del mattino, no, un caffè no, mi fa male, una vecchia Romagna. C'era come di lui che riuscivo a vivere la mattina, io manca, metti capi, sembra a voi, sono andato con loro, io prima lavoravo a Calabana, a Lattino, e poi venni con loro, andavo con manca, il bello però era partito di l'aria, poi grazie a me mi dava lucchi, mamma mia. Ne aveva una fuori in strada, ne aveva parcheggiata, e stata colpa di ricambio, ce l'avevo quella, ma c'è stata parcheggiata senza esagerare 2 o 3 anni, sempre lì dall'angolo, nella strada dove abita lui. Fortunatamente era a casa l'appartamento, un appartamentino del padre che magari lo pagava con l'affitto, è giusto che sia così anche magari, no, intanto l'appartamento è del padre, il padre pensionato, dunque anche il padre ha la casa sua propria. E cosa vuoi che dica? I tramotti erano 40 brandini, mi mancava poco in me, tutto mi mancava, ogni tanto andava, ne togliamo un pezzo e lasciata roba di 2 o 3 anni. Un giorno sono passati i vigili, sono passati, hanno visto questa moto perché c'era la targa, c'era tutta attaccata. Era una moto intelligente, cava nella targa, invece niente, sono arrivati i vigili, hanno preso il numero di targa, chissà magari che cosa è successo poi, sicuramente avranno fatto qualche contravvenzione, non so se era intestata a lui o se è qualche cosa che gli avevano dato a lui, e lui la stava utilizzando col pezzo di caldo, magari arrivava un amico, e mi servono il portello, dice, sì, andava, smontava, e già ci mancava a prendere il portello, arrivato, mi serve una ruota, andava, smontava una ruota, e il motocano sempre così, buttato in strada, semidistrutto, eccetera, eccetera. Poi alla fine, dopo roba di 2 o 3 anni, finalmente l'hanno portato via. Per dire, no, ecco, per dire dov'è che ha la testa questa persona, non ha proprio il gabbo, è proprio vuole il gabbo, avanti, grazie. Ehi, quindi sono bei questi baffuia. E te lo ricordi a Pietro Carboni, lui, già trincava a poco. Pietro, poveraccio, lui è morto, non è morto, in Francia, lei che l'ha avuto in Germania, ce n'è, Carboncino. Me lo ricordo di Pietro è morto, è già da parecchio, era 20 anni che è morto Pietro. Pietro faceva la carne, viaggiava con la carne, è morto, è uscito fuori di strada, è morto Pietro. Morto già 20 anni, Pietro Carboni, Carboncino, Paracchino lo chiamava. Ma Carboni, lui, quello di Bologna? Dalla Russia, dalla Polonia, dalla Jugoslavia. rabbia, ma fa trinca. Ui, curi mio, mica con me ha lavorato anni e anni e anni alla Contrando, da niente. Una la lagava e l'altra si rabbigliava, una tira così, l'agno faticato, non l'ho mai visto, ma niente su un panino. Gianni, il figlio di questo Carboni, che anche lui si è messo Carbuccino, lavora con la 3S lì alla Sizza, capito, lavora con la 3S. Anche lui si è messo anche la scritta a Carboncino del padre, e c'è il baracchino del padre, che c'aveva il padre, che quando poi del centro era riuscito a recuperare la roba, e c'era lui, che poi un giorno l'avevo controllato io qua, e c'era lui, il figlio, c'è il figlio che lavora proprio, adesso non so se c'è ancora la 13, perché un giorno mi ha chiamato che se ritrovavo qualcosa di lavoro, che era fermo, non so, con la 13 era licenziato, non so che cosa, mi ha chiamato un giorno. Se li trovavo qualche posto d'autista, capito? Anche lui si fa che Carboncino, vorrei, un periodo si faceva sentire a baracchino in camion, ce l'aveva, Carboncino si faceva chiamare come il padre. Ecco, ma io sono quello del Gaibone, che c'è di Bussurdorra, quello lì è? No, sono di Sassari. Ah, no, perché quello del produttore scaricava carne, lo stesso, aveva una buzza, pigliava una mezz'era in ippata al gas senza problemi, visto da me, mi non detto, l'ho visto da me. No, questa abitava qua vicino a me, a Santa Maria di Pisa, di fronte alla chiesa, di lì abitava. Infatti c'è un fratello, Franco, non so se l'hai conosciuto lui, si lavorava in carovana, alla Conrad. Franco, ti batti molto, mi lo sai, Franco, il fratello che era più piccolo, mi pare, mi ha detto zio Franco è morto, mi pare, siamo Alessandro, figlio di Pietro, mi pare che non so, come pare che è molto miso, Franco. Per quello che non l'ho più visto in giro, ogni tanto lo incontravo, allora era muscio, ecco perché non l'ho più visto, se no in genere lo incontravo anche spesso, quando uscivo, ricucciavo un bel muscio, epita, boh. Ma cosa fa, è andato lui quando... con la bara è arrivato, voglio dire, è andato lui il Franco per portare alla del fratello, ecco, quando esce, perché noi eravamo lì a Porto Torre, veramente ancora lo mangiamo, stavamo lavorando, lo facevano una nave di ferro, e abbiamo aspettato che sbarcato dalla nave, scende quello che abbiamo prima, c'era lui Pietro Franco, che l'ha accompagnato lui, la salma, è andato lui lì dove era il posto ed è tornato. Capito, è sceso, come ricordo, a Porto Torres, quando è sceso dalla nave di Genova, e c'era preso la cosa a piedi, è sceso lui, fratello Franco, capito? E gli altri familiari erano giù che aspettavano, dici lì al porto, dai. No, è morto, Franco mi ha rimandito una cosa del genere, perché ho chiesto io a... mi fa chiamare Alessandro, mi fa, Santo, insomma, mi ricordo, di nome di zio Franco, dice, è morto anche lui. È morto, di che malattia è morto, ma da poco, mi ha detto una cosa del genere. Sì, può essere perché già era malato, quello già lo sapevo che era malato, per quello non l'ho più visto, non l'ho inteso, non l'ho strano, ce lo conosco anche il figlio di Pietro, cioè, e a Buglia. Però di Franco non, ecco perché in giro qua, quando uscivo non l'ho trovato più, povaraccio, che ha sgobbato un poco, Franco non era come Pietro, non bizia, Quindi qual era di Pietro, lui era più ragazzo, poteva fare di anni, era più piccolo di Pietro. Sì, era più piccolo di Pietro, lavorava in carovana, la Conrad, anni e anni e anni. Insieme alla cooperativa che c'era lì di signor Guido da Costa, ogni capo Embreadone, il magazziniere, un ex carabiniere in pensione, sotto la Silvania via sempre a pulla grappa, limoncello, whisky, vodka, lemon, un'ampulla si avvicina una tazzata, chi sarà molto buonissimo. E così ti metto così pietra, no? Adesso io non voglio andare nel particolare perché io so che come hanno detto tutti, dice lui, prendeva parecchio. Il giorno era detto il gusto quando guidava, per la di autori incidenti non era bevuto, era sano. Proprio così hanno detto tutti, il giorno che ha avuto questo incidente ci è uscito fuori di strada, dice che era sano. Di solito non è detto sempre il gusto, non successo, ma è venuto a dire se ci ha fatto sano. Hanno detto che era sano, che non era il gusto la di, che non era bevuto. Così la voce, quello di ha girato la voce, poi non lo so. Non te lo so dire, no. Talmente lo volevo cotto io, si butti quasi un anni, che entrava a raggio con un camion, da lui, ma cazzo, ma come era un camion mio che già, pietre andato, mi parlava, loro, cazzo, lui avanti di mangiare un salvezzo, lo direttore. Infatti l'intidia sempre a volte lo direttore, ma via i cacci, e dare i cacci mi dare sempre a manchi, ma poi sta di rivisia. Positivo, ma comunque in baracchino lo conoscevano tutti quel carboncino, la zia chiama carboncino, però è molto a capo, c'era ancora, guarda, caricavamo quello in gruppo di mulito, dove c'è la capestaneria, lì dietro, il petto della propria, non c'era il Moase, era un vecchio mulito, caricavamo ancora lì, e poi immaginate che tanti fa è. Un bel d'anni fa, che me lo ricordo. Vabbè là, facciamo girare, Giulio! Ti grazie, non sai cos'è? Allora, lo vino con l'alcol, ho vinto una buchetta. Qui c'è una cosa, io ormai la gente lo dice da me, perché l'alcol arrivineggia, alzo che, ma come arrivo non ho mai avuto un vizio di errore come finuta, nuda, ma come vino la nuda. E lo vengo aranciati, Coca-Cola, che cose così, e soprattutto l'acqua minerale. Allora, Marco, ripensa che io mangio di tutto in Ucraina, adesso sia... Cos'è che c'è? Che sono un buon cos'è? Ma sentivo un rumore, il microfono stava facendo, non lo so, stavo dicendo, io mangio di tutto in Ucraina, sia di Pugliconi, ma io che... Una vita mi durerà, ma cosa io, né io né il parente mio, tutti gli altri che avevano con i vizi di alcolici, dunque ti puoi immaginare quanto tempo mi dura. Faccio pure un giovino abbastanza importante, tipo Don Perignon, fatto mi fa un nome così a caso, ma non li vimmo, non li vediamo nessuno, ma nemmeno a parte, nulla. Non so, però sì, ognuno ha i suoi vizi, cosa vuoi fare? Ognuno si tiene di solo, io mi tengo i miei. Dai, già. Altrettanto ti dico, sì, io l'assaggio lo posso fare, non dico di essere del tutto astemio in qualsiasi lì. Non un assaggio, già ti posso dire, mi offrono un mirto, una volta lo posso bere, ma questo anni che non li dico, compreso, non è una cosa che a me mi attira. C'è gente che proprio se beve un mirto, poi si beve il secondo, poi si beve il terzo. Io guarda, non voglio fare nulla, ma c'è stata una persona che è venuta a aggiustarmi il computer, mi avevano regalato una bottiglia di acqua vite. E siccome sapevo che le piaceva l'acqua vita, ho detto te la bevi un bicchierino, ho messo un bicchierino piccolo, un bicchierino se ne ha messo un litro. Vuoi immaginare, oia, poi a un certo punto il fegato, oia, è lo stomaco. E vabbè, ognuno ha le sue idee, cosa ci vuoi fare? No, io non ho mai avuto nessun vizio, né di bere, né di fumare, nulla. Ripeto, non è beviamo nemmeno a pranzo, ma nessuno a casa. Ma non solo io, ma tutti i miei fratelli, tu pensa che siamo 7 figli in famiglia e nessuno beve. Solo qualcuno ha fumato che adesso non stanno più fumando nemmeno. 15 anni fa, forse anche di più, non ne ha più fumato. È così, senza vizi, siamo una famiglia senza vizi, in poche parole, meglio così. Vabbè, io non dico che uno non debba bere un bicchiere, perché magari fa anche bene un bicchiere di vino a pranzo, eccetera, ma a me non mi va proprio, ecco, non sento né la necessità e soprattutto non mi piace il gusto dell'alcol, ecco qual è il problema più grande, non mi piace proprio il gusto. So qualificato, dammi una tazza di aranciata o dammi una Coca-Cola, queste cose così, dammi un ginger e io me lo bevo volentieri, però non mi dare alcol, ma nemmeno così, quante volte andare a casa dei clienti, se la bevo un bicchiere di birra, signor Giuro, no, grazie, mi dispiace, io non bevo alcolici, allora lei offre una Coca-Cola, va bene, ecco una Coca-Cola sì, andare, ma non mi offrire alcol, perché intanto non te ne accetto. Capito, funziona, io funziono così. Avanti, grazie. Eia, vabbè, no, io anni indietro, quando ero giovincello, che ho cominciato a guidare e tutto, già bevevo, non è che mi sia, però, di più perché quando mi trovavo in compagnia, allora sì, compresa. Però se ero solo per dire, non bevevo, però in compagnia buccinoso, stavo con la cosa della compagnia, bisogna leggere, bisogna pure io, non è che non ho bevuto, pure che vuoi stare un cane embriaco, già me l'ho guidato, ma 40 anni fa, 30 anni fa, ma poi no, non ne ho più bevuto, non me la faccia venuta, figatevi di avere me. Amici miei, fermi i ghibi, per esempio nella stazione di servizio oppure nella trattoria o ristorante, io vado da Rizzo, c'è un babuluco, se no è lo che ci riscintilli. Indubbiamente, bisogna sapersi controllare, no, uno non è che si può buttare così, invece lì c'è capita, li va a diventare amaro, buco, se uno è calmo, tranquillo, avendo ho conosciuto persone che da sani sono dei pezzi di pane, proprio bravissimi, poi magari quando sono ubriaco la voce diventa anche violenta, e non va bene, non va bene, va bene, avanti lui. Così ti dico una cosa, noi eravamo in sé l'altra notte, in sé lì in Corsica, eravamo in sé, proprio in sé, siamo tutti a cena insieme. E sì, siamo andati in questa specie di ristorante, trattoria, quello che era, e ci abbiamo fatto portare prima una caraffa di vino da litro, ed erano insieme. Beh, lo sai che te ne ha regalato tre caraffe, se ne ha voluto tre caraffe di vino, al ultimo, e ha compreso l'acqua pure. Sì, uno se non regge va anche bene, perché no, nessuno lo impedisce di bere, ci faceva anche altro, no, ma a me proprio non mi piace il gusto, capito, il gusto, che non, il sapore, in poche parole, non sopporto quello, capito, tutto lì, non è che, perché magari non ne voglio bene, io non sono astemio, io non mi considero astemio, ma non ne dico, io non ne bevo, no, proprio non ne bevo, nel modo più assoluto, ma allora adesso no, ma da sempre, anche da ragazzo, tanto più che ho fatto tanti anni di sport, ed era contrario, bere, sarebbe stato contrario, bere, essendo un atleta, per dire, no, o fumare, io poi farò nulla, no, nella maniera più assoluta, proprio niente, niente di niente. Avanti già. Io ripeto, non sono del tutto, non mi posso diciamo escludere del tutto, però mi regolo nelle cose, per dire a tavola chi beve il vino è solo mia moglie, io non ne bevo, lei ne beve un bicchiere a pasto, se lo beve sempre, infatti il vino a casa si copa solo per lì, io non ne bevo. Perché a casa sua è stata abituata così, e i genitori sono del Nuorese, e il bicchiere del vino non deve mai mancare a tavola, ed è così. Lo beve, non è che si imbriaca, si beve un bicchiere di vino per accompagnare il pasto, tutto lì. Io però non ne tocco, no? Io bevo solo acqua. Ma per dire, se so di essere a una festa dove si sta in compagnia, cose del genere, qualche bicchierino anche più lo bevo, non è che Ma non è un mio vizio, capito? Non è un mio vizio. Di solito non cerco di alcol, non cerco del vino né nulla, anche io quando vado al bar, per dire, mi prendo una menta, se siamo d'estate, per disettarmi, oppure ti posso dire un'aranciata, una Coca-Cola, un bitter, però non ne prendo mai alcolici al bar. Ok, io non so nemmeno quello che vendono al bar di alcolici, penso un po' se io ne prendo. No, io in estate soprattutto guarda, preferisco molto l'aranciosa. Se mi trovo al bar, prendo un'aranciosa. Un'aranciosa fresca e devo dire che mi va bene, quella mi va bene. Più addirittura di un'aranciata, perché l'aranciata essendo più dolce mi fa venire di nuovo sete. Invece con l'aranciosa mi risetta meglio. Tutto lì. Sennò io di solito quando vado al bar la mattina, ad esempio, quando vado, un cappuccino, sempre un cappuccino, non bevo, e poi più tardi, sempre magari trovo degli amici, tante volte ci sono trovati anche con Natalino, qui lì al solito bar, è sempre un cappuccino, mi trovo a confermare, Natalino trovo a confermare, o chi mi conosce, che io non assolutamente alco niente, invece la gente appena rientra, un giorno ho assistito, due amici sono entrati al bar, proprio di mattina presto, mi levo 8 del mattino, una cosa così, e uno fa, fammi un caffè, Fabio Aziz, fatto, e lui mi dice, a me mi dai un cognac, che cos'è che si bevi tu un caffè? Ah, no, dai un cognac che vuole, tu vuoi questa cosa, ma dimmi tu che c'è uno come si permette di decidere per gli altri, boh, è una cosa assurda, da boh, tutta la confidenza che vuoi, tutto quello che vuoi fra amici, ma uno non è che si può permettere di dare, boh, un cognac che vuole letto, ma che discorsi sono questi? Se io voglio un caffè, perché vuol dire, se ti chiedo un caffè, perché vuol dire che mi vuoi un caffè, non puoi andarmi, tu hai un po' di livello un cognac. Beh, allora io non ho avuto nessun cognac, ha preso se avevo anche lui il cognac, voglio mettere la meglio, ho pensato, ma che tu, ma questo qui, dice, cos'è il figlio, è il padre, lo vuoi, non lo so, boh, non è possibile, per dirti io come stanno le cose, vai lui. È positivo, comunque, oh Giulio, tu, allora io non sono un grande bevitore, però ti dico una cosa, se mi mettono davanti a scegliere una bottiglia di Coca-Cola, una bottiglia d'aranciata, una bottiglia di gazzosa e una bottiglia di vino buono, io mi bevo un bicchiere di vino e non bevo l'aranciata, mangiando sto parlando, perché io sono un nemico delle, non bevo né aranciata, la gazzosa non se ne parla proprio. Proprio meglio, sono gusti Giulio, sono gusti, io la gazzosa non mi fa, né la gazzosa, neanche l'aranciata, non vado, e neanche la Coca-Cola, se voglio bere bevo acqua, vedi, l'acqua ne devo bere tanta, però gazzosa, queste cose ne faccio, per me si guarda a casa, io non ne bevo, mia moglie beve tutte queste cose, io assolutamente non mi fa di bere né l'aranciata né cose, io no, pranzo a volte e bevo acqua, solo acqua, acqua solo, però di queste bibite i figli se non c'hanno il tavolo lanciate Coca-Cola e succo di frutta, nulla, non è bevo assolutamente acqua, mi posso bere un bicchiere di vino, ma non di più, da stesso da solo, un bicchiere di vino buono me lo bevo, ma non senza esagerare, non più di un bicchiere, capito? A volte anche mezzo bicchiere me ne posso bere, se no bevo solamente acqua, però per bere un'aranciata, una gazzosa, mangiando bevo meglio un mezzo vino, non ne bevo lo stesso, mezzo bicchiere di vino, non di più, ma mezzo bicchiere me lo bevo e poi bevo acqua, capito Giulio? Però non bevo mai né aranciata, né Coca-Cola, né gazzosa, posso bere mezzo bicchiere di vino, ma non bicchiere intero, mezzo bicchiere di vino, poi bevo acqua, basta, non bevo robe gazzate, aranciate, non ne bevo mai, no, è una cosa che non mi va, non so per quale motivo, no, è una cosa che non mi attira. Sì, quello sì, ma guarda che io capisco benissimo anche che un bicchiere di vino a pranzo o a cena è considerato addirittura dai dottori, mi sia ben chiaro, io non è che critico uno che beve un bicchiere di vino, no, assolutamente, anzi, forse sto sbagliando io a non berlo, anzi, perché invece è considerato che i dottori lo consigliano un bicchiere di vino a pranzo o un bicchiere a cena, per dire, che evidentemente perché fa bene, io non sono dottore, ma io non lo bevo proprio perché non mi piace, tutto lì, ma questo non dico perché ripeto, stando a quello che dicono gli autori, un bicchiere di vino va benissimo, ci mancherebbe. Questo sì, lo capisco perfettamente. Però i gusti, sono gusti, chiaro, è ovvio. Io acqua minerale, un be, acqua minerale di gran carriera. Qua non ci sono problemi. Ma per il resto niente da fare, niente. Posso bere un bitter, posso bere una quattunica, queste cose così, ma non alcol, non niente, nulla. Nonostante che capisco benissimo che un bicchiere di vino a cena o a pranzo è consigliato addirittura dai dottori, e se è consigliato vuol dire che fa bene, per carità, ci mancherebbe. Avanti, grazie. Ma io prima qualche bicchiere così di limonata, aranciata, già me lo bevevo, ma so quanti non li so bevere né più, ma anni, e qua c'è una limonata, a bisogno per un anno, la ribia da guscia dice, beh, mi la vico piano piano. So che ancora brilla, ma è la brilla, perché anche qua in casa noi che ci fanno matti per le cose gasate, uno che a me si beve cose gasate, anche l'acqua minerale, mi gonfia lo stomaco, pare che mi ha mangiato un elefante, e poi sono così bruttente, e me lo fa anche l'aranciata, Coca-Cola, questa roba qua, non la bevo io. Sì, beh certo, se non ti va non ti va, fai bene, se ti fa quel difetto non ne bevi e fai bene, ci mancherebbe altro, ma per dire, no? Io ripeto, in famiglia noi, nessuno, la verità, io ti dirò di più, ripeto, io ce l'ho il vino qua a casa, voglio uno di un Perignon, bottiglia da 400 euro, mi intanto mi ha dato un'idea, ma non ne beve nessuno, nemmeno mio fratello, quando avevo mio fratello o mio parente qua, non ne vede nessuno, qui l'unica cosa che va forte, sai qual è? Quando vengono a dire i miei cognati, il caffè di Gran Carriera, il fanno caffè di quello con la macchinetta espresso, noi abbiamo la macchinetta espresso qua, ecco, quello già è poco funziona, ma la grande, veramente, poi magari nella pausa c'è un bicchiere della Coca-Cola, un bicchiere del bitter, oppure del ginger, oppure della lanciata, eccetera. Queste cose qua, ma no, l'alcol non è di casa, guarda, non è di casa assolutamente. E vabbè, Gianni. Ma io dico una cosa, si può avere anche il piacere di bere un bicchiere, ma bisogna regolarsi sempre, in tutte le cose c'è un limite, io quel limite lo conosco, cioè se per dire a me mi offre un bicchierino, diciamo te lo bevi un Mirto, ecco, e me lo bevo. La verità, perché mi fa piacere bello, mi piace, lo bevo, però poi se mi un altro bicchiere, no, basta, ho già bevuto, niente, no, ho un limite, capito? Ma sono quelli che continuano, io per dire, quando vado dal cugino di mia moglie, che è del Molese, che abita lì a Ripunti, legava tutti i vini possibili e immaginabili a tavola. E apre anche quando diciamo sono andato la prima volta a cena, perché lui prima era a Genova e poi è venuto qua perché era finanziere, e quando apre per dire il vino, la prima volta che sono andato a cena ha aperto un vino, non so di che annata era, se aveva roba di 10 anni, e ha detto questo lo apro in onore a te, e che a te ha aperto questo vino, ma un vino che ogni bicchiere ti cappottava. Ma chi è questo finanziere? Ma è ancora in servizio o già? No, in pensione adesso. Ah, positivo. E comunque qua canta nel coro della chiesa vostra. Che ci chiama? Grazie. Andiamo a farla. Pensa già che io se volessi svino buono, ma veramente buono, ce l'avrei. Anche grazie, me lo darebbe, perché tutte le volte che ci siamo visti mi ha sempre offerto e non ho mai accettato, perché tra i Giovanni non ne voglio, già lo sai che non ne bevo, intanto cosa me ne faccio a casa, diventa, perché intanto lo consumiamo. Tu pensa che abbiamo, io ho dei parenti che sono produttori di vino, ma vino di di proprietà come quello buono veramente, non è, non è uno scherzo. Pensa che un giorno sono andato a portare le mobili in quella casa e proprio in quel momento che c'era due fratelli mutinetti c'erano lì in quella casa, che si stavano comprando il vino di proprietà, si stavano comprando da questo mio parente. Quando io l'ho visto, siccome mi conoscono anche loro, mi hanno detto, dice cosa ci fa qua, cosa ci faccio io qua, cosa ci fate voi qua, io sono intanto di casa qua, perché sono i miei parenti loro, Maria e Giovannino, sono i miei parenti, noi dice siamo dovuti a comprarci il vino, fate con tutto il vino che avete voi nei negozi, no, quel vino lì è per i clienti, noi ci beviamo questo, e mi chioda, il vino è proprietario, che è praticamente la famiglia Baracca di Sorso, che praticamente sono i parenti di Francesco Baracca, l'aviatore, il ricorso, come si chiama, il accidenti. Quello che aveva fatto la guerra, Francesco Baracca, l'aviatore, quello che ha battuto 35 aerei, allo 36esimo non aveva Badaedo, che è il fratello del nonno di mia moglie, ti puoi immaginare, capito già, perché la famiglia di mia moglie è una famiglia nobile, tanto è vero la madre della contessa e eccetera eccetera, il nonno era uno dei più ricchi di Sorso, aveva delle proprietà che partivano da Castelsanto sino a Sorso, ti puoi immaginare, e così via, poi ne ha arcivescovo al coso, ne ha Cagliari, ne aveva un altro scrittore, insomma una famiglia nobile, e prediti, a questo punto volevo che dica, volendo il vino io ce l'avrei e come ce l'avrei, ma me l'ho fatto tante volte ma non l'ho mai accettato, non me ne dare Giovanni, tanto già lo sai che si butta, capito, avanti lui. Aspetta, ma no, niente a vedere con i Coltoni, no, i Coltoni erano queste robe potenti in Susi, tant'è quando ero ragazzino io, so che erano molto potenti i Coltoni. No, questa è la famiglia Baracca, no, Coltoni, Baracca, parenti dell'aviatore, capito, il quello che aveva fatto l'aviatore, quello che aveva battuto 35 anni in tempo di guerra, tutto lì, che è fratello del nonno di mia moglie. Ok, è la nonna di mia moglie, la contessa, non sono di Sorso, cioè il nonno di mia moglie non è di Sorso, ha vissuto a Sorso, ormai è morto, anche la nonna è morta, però non è di Sorso, capito, non è che era nato a Sorso, ma lì avevano le proprietà, ripeto, tutte le campagne o quasi tutte, da Castelsanto sia da Sorso era di sua proprietà, addirittura c'era anche della campagna dove c'era il mare, che arrivava al mare, ti puoi immaginare. Meglio di così, no, comunque sempre di ancora lui va. Allora il Tremonte la chiamano lì, già lo so, la conosco quella lì. Sai invece a me come la bevo la gazzosa, col vino, la mischio il vino, mischiata con il vino la bevo la gazzosa, però mischiata con il vino. O se no, quando sto cammato, li metto il limone, una fetta di limone e una puntina di cucchiaino di zucchero e me la bevo così, però per la normale no, non mi va la gazzosa, non si sa perché, invece quel vino mi piace, mischiata nel vino, mischiata metà di vino mi piace, più gazzosa che vino mi piace, dà un gusto diverso e mi piace, la bevo così. Oh, io devo un attimino fare un 10 minuti di bianco, devo fare una commissione veloce, mi faccio 10 minuti di bianco e riprendo subito, riprendi Grazia, e riprendo subito, 10 minuti di bianco faccio. Eia, ok, dipende cosa ho cucinato, un bicchiere di vino e me lo vengono matti. Secondo cosa ho cucinato e ci sta bene, se no non è vico, mi cueva e bu. E prendi giù. Forse è delle preparazioni, c'è. Sì, sì. E vabbè, ripeto, un bicchiere di vino, bevendo un bicchiere di vino a pranzo va benissimo, perché lo consigliano anche i medici. una questione anche di sapore, capito? Almeno lo mando e buono. Si prendi già. A me il vino non è tutto che piace. Ci sono dei tipi di vino però che bevo volentieri, tipo quello di Sorso, di Usini, che è quello che mi offre sempre il cugino di mia moglie, lo prende a Usini perché c'è un amico di Usini, sono andati anche a vendemmiare loro, dice so come lo fanno e tutto quanto, lo compro sempre da lui per quello. A volte me lo regala, a volte lo compro, però c'è sempre quello lì in casa. Ed è un vino che matta forte, però è buono di sapore. C'è quel vino di Asprino che a me non piace, non si riacca mai. Lo so, purtroppo è così. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare o se è la propagazione. C'è qualcuno che vuole entrare su questo canale? No, forse è la propagazione. Va buona, riprende, grazie, io vi lascio. Ci sentiamo eventualmente domani. Sono le 7:20 circa. Alle prossime, dai, me ne scendo giù, adesso mi guardo un po' al computer e poi guardo un po' di televisione, vediamo un po'. Ci sentiamo. Ciao Gianni, grazie per la chiacchierata. Ciao Luigi, se si all'ascolto, ci sentiamo. E ciao Graziano. Riprendi pure e l'ascolto fino a lì, poi chiudo, dai. Riprendi Graziano. Ehi, ciao Giulio, ce la sentiamo alla prossima. Salutone al Correa. E anche io ne approfitto qua che devo cucinare, devo prepararmi la cena. Qua devo farmi il coriglio, fregattini, la pasta e devo preparare tutto fresco. E allora ne approfitto anche io. Gianni, riprendi. E io ne approfitto per salutare a Giulio. Una buona serata, una buona continuazione. E poi anche a te, grazie, se ti dice andendi, io rimango laggiù, quindi me ne sto andando anche io, vi saluto tutti, saluto anche chi c'è l'ascolto, e me ne vado anche io. Ciao, ciao Gianni, ciao Giulia a tutti e due, ciao a Luigi, sei in ascolto. Ok, ciao a tutti e due, ciao. Mi ha detto gappa, avanti. Buonasera, con chi ho l'onore di parlare? Qui è la stazione Doppio Run della città di Sassari, Nord Sardegna. Gappa. Sei in barra pesante? Buonasera anche a te, hai sentito, vai. Stai andando a imbarcare? Io. Gappa, dai. Bene, meda. E dov'eri di bello? Dove? Bella zona quella lì. Già va bene. C'è un bacchetto a scarico, quando l'ho fatto ieri? La Sardegna, hai capito. A Piaduri lì. Tappami, qua c'è un tuo collega camionaro, avanti Luigi. È positivo, buonasera. No, ma io sono a riposo adesso. Proprio lì dove sono i campi da golf, sei andato lì anche la rivolta, lì sei sceso lì giù. Al villaggio proprio, è positivo, sì, lo conosco, sì. Sono state tante volte, un trentino, ma la c'hai, motrice c'hai. Positivo, perché è un po' trentino lì, lo so, sono sceso qualche volta e... lo so, dai, perché dove c'è quel parcheggio, ho capito. Ho capito. Ah, oggi era bello anche qua, stasera sta un po', il pomeriggio è un po' nuvoloso, no, ma era bello anche qua oggi, dai. Non ci possiamo lamentare, il tempo era brutto ieri, avanti ieri, ma oggi era migliore, dai. Un po' migliore degli altri giorni, dai. Non ho caldo, però diciamo non era così brutto. Ah, positivo questo. Tu che zona sei? Positivo, no, io conosco un po' Manero che ti fa. e falli di camionisti. Gigi Vulcano. Chi è che ha detto che sono Gigi Vulcano? Chi è questo qua? Ehi, che è? C'è, che vergogna, non mi riconosci, mamma mia, te. Ma che è? Tu sì. Calma, Gigi. Ecco, buonasera, ben ascoltato. Ma dove stai andando tu? È proprio nominale. Positivo, positivo. Ma imbarcare anche tu, Sara? Senti, direzione c'è, ci facciamo 2-3 settimane su, la cosa non è bella, ma bisogna farcela piacere. È positivo, positivo. Ma tu non sei, non fai parte con l'altro amicaggio, tu sei per parte tua. Siamo in tre. Come? Siete in tre della tua scuderia? E beh, a Peppe, no, Peppe non ce l'hai. No, no, no, Pucci è rimasto giù, non è... Dai. Positivo, positivo. No, a te ti mando perché sei più, più abituato. Tanto tu andavi sempre lì a San Marino, sei abituato. Positivo, dai, ormai ci abbiamo fatto i calli anche lì. Questo è il quinto anno che sto più. Dicevo, sono rimasto un motore di antenne, cambio, cambio. Che è questo? Questo chi è? Vale, ma... Che cadeva della Lucca, boh. Di chi vuoi caparroghe, dai, cambio. Buonasera, dai. Vabbè, bisogna farlo, purtroppo. sentito che non sta andando molto volentieri, ma bisogna convincersi che è bello, eh. Ecco, ma sì, quello di Modà, cambio. Senti più attento, ecco, ascolti Luca qua, cambia, cambia. Sei già arrivato in porto, cambio. Che cos'hai fatto? fate buona traversata e buona permanenza lì e su fuori a Genova dove devi andare, dai. Ciao, ecco, ciao. Buon viaggio, dai, e buon trabacco. Abbiamo se avesse il 45 che ora c'è. Grazie. Oh, canale 5. Ha detto Graziano. Oh, canale 5. Graziano. Dimmi. Dai, Annesì, ma gli altri dai su con il giù, vai giù. No, sto guirendo, aspetta che se l'ho messa a faccia. Ehi, mi raccomando, e non fa la ciaccata da voi, ma gli tirare il fumo. Ehi. Giusto mezza tazzetta di vino bianco. Cosa hai fatto? Ho messo mezzo bicchiere di vino bianco. Adesso faccio 5 minuti e lo spendo. Ehi, ma metti a poco lento però, a poco lento mettilo, grazie. Io ci sono attaccato. No, non si è attaccato, ma lo devo girare. Lo devo girare, no, ogni tanto. Capito? Perché se no adesso il vino si evapora e mi si attacca, capito? Infatti allora, mi raccomando, se no c'è ultimo figlio fiago del fumo, se no, e beh, come sta la signorina? Già sta migliorando là, con quelle gocce e quella pomata. Allora la gita pisassino un po' carino, se no si bigliano video a servire a letto e poi la lotta lo zecchio ha giudito. Fai bene. Molto bene. Ma se riesci da Luca allora no? Sono andato alle bocche, parlo di tutti fuori il servizio, vai, non la mala, poi sono andato alle rospie e mi sono tornato a casa. No, io ero in campagna oggi, ha già tagliato un pezzo di terra, che erano italiani, e poi basta, ma ci va a piano piano, la giubiliata, e così che finiamo la giubiliata, ma è pulito. No, euro, come si può fare? Aspetta che lo guardo, secondo me lo spendo. Lo lascio ancora un altro po'. Eia. E come l'hai fatta la cacciatora, il coniglio? Ho messo la cipolla tritata. Il coniglio lo ha chiuso friggito e poi ci ho messo il rosmarino un po' per saporirlo e mezza tazza di vino bianco di quello secco che già ce l'ho. E allora se quelli che cucinano li posso consumare un po' carico di questo vino che fa rimasto e del rosolato. E poi al limite piaccio anche le olive, me le posso pure buoni, ma non lo so. E le olive ci voglio là, le olive ci voglio, quelle buone. Ma la carota messa gli là, sì? Oh, i finocchietti di campagna gli ho messo, sei selvatico. Vabbè, ma se avessi messo un pezzo di carota sarebbe fatta, sarebbe stata anche più perfetta, va bene ugualmente, dai. Non è che poi stati venire alle dibatto, alle rospie, la giabbata erano molti molti, chissà la andovina non ne ho preso. Bene. Ma gente mi era poco o no? Ah! A venire ieri a rupire. Sono andato quasi alla chiusura, sono uscito tardi, mi pare che era mezzo di e mezzo. Sono passato alle busta a vedere se c'era sbloccato, invece terminale con il servizio, ha detto vai a non ammare, quando mai, vabbè. Ha detto tanto devo andare lo spasso, gli vimbi a bugina, vai giù, pure gli terminare sospese, allora si pure non che ci sono tutti questi vaffanculo, sono andato alle rospi. Tu ma ammazzano un pizzo ando, a che dopo ti vado a ritirare l'assicurazione alle 9. Ah, e speriamo Filippon che vedi là. Senti, spero che non sia domani a mandare al burro pure il servizio. Speriamo di no, ma forse oggi lo sai perché? Perché era il coso dello Stato, c'era tutta la parata al televisore stamattina, capito? O del capo dello Stato, non so cosa è, della non me lo ricordo. E infatti oggi, 1° maggio, 2 maggio, 2 maggio, vicini al fondo della rete, 2 maggio, 2 giugno, 2 giugno, ah 2 giugno, e io ora ora ci mettiamo a cuore, grazie a voi. Siamo in giugno, oggi è il 2 giugno ed è la festa del capo dello Stato ed è la ricorrenza all'anagramma della punta di Ringaviraggio, nominamento. Insomma, a partire di come c'è cominciato la brigata Sassari, ha detto di tutte le cose che hanno fatto, che sorprendi, e poi tutti gli altri lati militari. Aeri non l'ha levato quel canno, i tre colori dell'aeri. Picciola, se lo metto in quattro fesselle, lo fa dire di Napoli, la chitarra, si era rimita a due di là, e fatta in lunga, e mi si era rimita un gigante di là. Ah, ma chi parla la prossima mossa? Invece il giornale la fotografia del viso l'aereo con la scia della bandiera italiana, non l'hanno fatto qui? Evidentemente lo viene di dire a far pulire un carburante a fargli assaiare. E a chi quando si assaiare a uno di chi sarebbe, sono milioni, non sono 100 euro, sono milioni chi sono assente in aria. E infatti, ma ricavato ridere a te oggi fa bei piedi, capito? E infatti ha detto, boh, ma sei in automatico, già visa là come te sempre, perché è in automatico, non al banco là. Invece cosa hanno studiato? Hanno butti tutti fuori servizio e si ritrattano i burugi, li rilassano gli interessi. Conta tu, gli interessi di tutta l'Italia che ti hanno incasciato. E ti mangi la faccia tua oggi. Chissà che pranzo hanno fatto oggi, ma tutte le caiette che senza travagliare e figli hanno avuto le là. Ma che ha detto andare a girare? Mi senti? Sto girando di nuovo verso di te. Vieni, Costantino, mi senti? Guarda chiaro, compare, dove sei? Santosa, Santosa. Marcellare noi. Bomba, sì, Costantino, una bomba non esitia, sì, qua. Portafoglio non ne ho portato le uso. tasca dei pantaloni. E Rossi no, ma fa che spicciolino così, dacceli o. Se ti accontenti di questi spicciolini. Alla padrona bisogna dirlo. La dice il mare va per la bocca, ma dice. Penso che buffoletti mi. Oh, ho fatto una barruccia oggi in campagna, ma non andate a casa, e non ti mangiamo un pezzalino e basta. E un attimo ci mangiamo, boh. Allora c'è un ti provo a. Mi è rimasto un poco di chissà, una barruccia, si ricadivo, mi tronde. A vedere se riuscì a farti la parola. Cosa hai fatto, l'orazza? No, roba russa ci ho fatto, grazie. Carri arrosto. Ah, le pari a orazza. E non è buona. Senta, anche io quando avanza in campagna, tiratela a scaldare al forletto qua, secondo cos'è, a accendere un po' romano. Ventilatela e la scaldo lì. E allora, cosa fai? A te la lampada? Non avevo roba da lampare noi, anche per oggi non si lampa niente. Bisogna risparmiare, non abbiamo soldi, grazie a... Perché quel poco che ci danno ce ne fregano, e questi che non ce ne sono tutti contatti, per cui devi stare attento a questo che prendiamo, capito? Io lo credo, però la fammi in giro, ho in prima pagina per pure un coso dell'Equitalia, ti dia fino a venne poco di entro un mondo, a vada a Bisco, lo sportello amico si chiama, e se tu fai problemi, andai su sportello amico, già ti vengono incontro, te lo fanno rateizzato, per scritto, per la fotografia di un direttore, anche dei dipendenti, e stavano dicendo che è triste la cosa, perché c'è un sacco di gente che racconta le sue difficoltà, chi è disoccupato, chi è separato, che hanno bannuta, insomma, e loro cercano di venire incontro, purtroppo loro sono costretti e fanno quello che gli dicono, chi manda le emissioni, loro non ci hanno colpe, dove c'è sottimento c'è il cuore di gas a bomba. Ma l'Equitalia mi sembra finisce fra poco, l'Equitalia non c'è più, mi sembra che subentra un'altra azienda, mi sembra, perché l'Equitalia ha rovinato un bel di cose, ha rovinato quest'anno, capito? Nonostante che c'era la crisi, capite? Però tu gli altri li avevi i soldi che devi pagare, sei a posto, capito? Attenzione, Graziano. Si stanno discolpando loro, no? Cazzo, cazzo, sono tanti gli interessi che si piccano niente. A parlare davvero a me di chi c'ha documentazione che mi hanno mandato, li devo dare 600 euro. Cazzo, un caso fa 4 fogli di bambino. Ah? Ladri. No, gliel'hanno prolungato fino a dicembre, c'era sul giornale, anche il televisore l'ha detto. Attenzione, Graziano. Allora, ma fuori magari si rimette qualche soldi, no, da una parte riesce a adempire, a pagare i debiti allo Stato. Suia, per carità, che suia. Dai, dai. E che lo fa trovare, non ci fai a pagare. Ora? Registrate il prego, te l'ho detto, già ti vengono incontro, ti rubate il rateale, capito, bruci, non hai nulla, non si travaglia né nulla, ti vengono incontro a ratti, stava a fare ratti minori, cosa ne so, la dica ti domanda a te, ma dici due ratti, una questo mese e una all'altro, e di cosa, due ratti, la metà di questo, e la bocca perciò come venivo qui di Sicilia. Facci una cosa, quando è che scade, entro quanto lo devo pagare? E mi ha detto entro il 5 luglio. E allora entro il 5 luglio ti rubavo, anche ti devo dare l'italese pure di chi mi viene rattezzato, ma pagati da una di un mese e una altro mese. E cosa mi chiama? Nulla. Oh, c'è stato un break avanti. Eia, ciao Gio Maria, buonasera, ciao Graziano, buonasera. Ciao Giuseppe, ben sentito, ben entrato, avanti. Cappa, è un casino, con questa Equitalia qua, non si capisce per nulla, una cosa, se c'è debiti, quella roba là, sì, le volete raddrizzare, ho preso, ma mangiate dei tesci, e non l'ha detto tu, grazie. Cioè, ti sto dicendo che ho pagato documentazione che mi hanno mandato e che pari bulli che hanno descritto e di non andare a pagare. Gli ho dimostrato che era a posto, mi devo pagare gli interessi di loro, no? Le bambini che mi hanno mandato, senza il tuo, cazzo ruta e faccio i sette bulli che mi hanno mandato, hai compreso? Capito, grazie. Purtroppo. La legge è quella, e deve fare come dicono loro, se no cominciano a fare pignoramenti e tutto quanto, l'hai compreso? Posso, cosa fai, non abbiamo, così ti accorciare bene, stare montando di Nigila, non sai niente, riprendi che ormai. La cuccia di padre andare, sai niente, non fai di padre andare alla cuccia, però grazie a noi a rispondere. Facciamo una buona pensione, capita, mi marisce a 3 milioni, 3 mila euro un vicino al mese, grazie. Sei tranquillo, due, per cui paga, non ti preoccupare. Giuseppe che non ne ha, ma tu gli accenderai i soldi, paga. Cambio. No, 3 mila sono poco, avevamo allenato su Emilia. Giuseppe, riprendi. E se non la vuoi tre con la parola? Grande Isaac. Ehi, ha registrato, ha fatto il brecco. Ah, non entra più. Proprio così è. Signori, voi dei cugini, Giovanni. Infatti, allora, con a lui. Di mangiare il bis, la faccia di noi, si rimane a presa, le visce, buffone, di casa, alla faccia rossa. Si posa, non va a abbassare l'asse, bisogna macchina un salto, ma con chi si va? La macchina verde non i bigliani, sono tutti pesati di tutto. Ma devi stare attenti, mia, chi con chi su basso, chi su alleni, che bomba sottano culo, se si la devi ne azzitta. Hai detto che c'è mazzano quando si fetta c'è mancante. Chi si può fare niente? Vabbè, immagino che bonghi a persone innocenti però. Sono arruinati di mezzo mondo, sono arruinati, Giomari. Ma ce la fai, questa generazione di adesso dove va a lavorare? Chi si domani tutti i piedi, chi si corrompe i vecchi? Cosa vi sa di la fai? Ma te lo portano i bisogni giovani. E a cosa la ribattere qui? Ma per la figura, ma muri di fame. Infatti, ma manca ancora, poi manca ancora per mandare per lui, già che fare i cori, ti vuoi invedere a fare i libri, grazie a Giuse. Dimmi, Giovanni, avanti. Dimmi, cacchi lo fino di noi, che mi ha chiesto la tua, datti un po' di travaglio alla manca a pagare i dazi. Carità, lasciamo perdere, dai, che è un casino, Giovanni, è un casino, speriamo se ne hanno fatto nel comune, il 10, per qualcosa, delle bollette che ho pagato, e ho portato tutto quanto all'assistenza sociale, vediamo, va. sono questi enti che aiutano, vai, e per cui già un qualcosa, vai, se riesci a ottenere, cazzo, magari, oh, vabbè, magari la cosa la dati, anche di non hai manco bisogno, ma sai che te ti fai che non hai bisogno di andare lì e a regare i bucci pieni, anche la carriera di filo grazia. Va bene, siamo al limite dopo la casa, dai. Ok, già sono meno che ancora. Ma la Zucchi, fanno schifo, fanno a me, è la verità. Chi si chiede andare così, chi non ha ne bisogno, mi fa tenere lo schifo. Ma schifo, Posso comprare uno che non ha bisogno, ma io ho visto un paese che non ha bisogno di andare nello matrice. Dunque, perché non ci sono controlli, se avrebbero controllato bene, avresti visto la preparata solo a quelli che non hanno più bisogno. Ma tu fai un amico, magari tu fai un amico e chi sta impiegato e allora agevoli e a tuo amico, voi l'altro amico agevola l'altro amico, anche così sono proprio quelle persone che non hanno niente, non gli danno niente, è così grazia, è così, a bucci pieni lì. Ma se la state che ci ho combattato quando ero parenne da respirare, vera, un po' malaccio, con due buchi più mani dietro, pantalone, i lucini si vali, e con questo giubbotto bianco, tipo impermeabile, che ci infiate. Non si sapeva che coloriera, il giubbotto in realtà doveva essere stato bianco, non si sapeva se era marrone o nero. Curi belli, non, gazzianomi, e va via la covetta, curi belli, curi belli, curi belli, li altri. E la moglie di Maria, una degli anni 30 quando veniva la guerra, un cappotto più manno di Edda, con questi borsi, vieni, ma hai fatto la pena anche per carità, si tenne lo strada a buirani. E tu devi chiamare la pace e dare il zetto in rodò a te se prendi la barba e puliti di un po' carino. E la vaga non vengo, se il bus a casa tua direttamente, non ci si ospiti vivi, si vuole in campagna a dormire, va a mangiare e sei a posto. Ha fatto un bruciatore nuovo, ha comprato un bruciatore nuovo, un graziato a bricolette. Così che fai pure un regolatore vostri. Da per i vostri subiti, grazie signore, bene, e la barba. E laggiù tre io di cannelli, di tutte le misure, uno lungo lungo, a rotellina, uno a mezzo, a maneccia, a ciccia, faccio, e l'altro è più corta ancora. Io me lo faccio di due, faccio un lungo e un goccio, mi faccio di sicuro a me, così che per fare la barba dei beri, ai cianetti di andare. Faccio pure la bomboletta con la bicchiera e le buone la bomboletta. Chi se me l'aveva comparato un paio di mesi fa? Per rattoppini o scaldare qualche bollone che non molla, servi sempre. Invece mi ha la bomboletta e il cannello mano puoi trattare questo. Chi sono operato? La bombola a viraggio, i trecchini, viraggio la bombola, mi pare i trecchini. Sì, poi questa bomboletta, i trecchini faccio, ti puoi immaginare. Altri no, però ripeto, là giù, la bombola, posso attaccare la mano alla bombola, la mano era la bomboletta minore, capito? Per cui, faccio questo logo, logo, logo, che la giù è una base, gli lampato, dentro la cabina. E la poi la giù c'era la picco, logo, coso con una maniglia, al cavolo, che me la giù bigliato, così che io servi sempre in campagna, capito? Beh, se vedi, io vi la via che li trattavo per un cattramo e pur bauciare i buchi quando vado i buchi in campagna. Allora bisogna usare un terrino, bisogna usare ogni tanto, capito? Un anno vera la zecca e fasciatura, grazie a, ma mai, faccia dure, non la giudica mai, zecca così. Ma è molto buono un cane. Allora, c'è una fazia. Si fa la bomba, a chiosso. Attacca pure bruciato dal cannello, un di passa voi, da tutta la camminata sopra, in ogni luogo, bruciato cantovina. Ma la giù, metti a ciappare un calore, brinca, paga. Però faccia che tu la giù distrutto, un cannello. E da poi ha già passato la medicina, capito? E per cui non la giudico più, però la giudico frutta, a parecchie della curia visitano Pascone. Anche io un anno ho fatto così, cazzo, qui era un'invasione, ha già attaccato il cannello con il doppio, ha già cominciato a lavorare il cancello, in natale il muro, in natale il cancello, tutto, sotto la veranda, i pilastri, e cazzo, per ora dico il cannello acceso, lì. Poi tutta la rete in giro a rimuri di la casa, a chi viene da me attaccato a rimuri, no? E poi abbiamo scritto a cassina bianco e si vede a subito. Io già ne ho già riuscito nei due, va bene, abbiamo messo casa a torre bianca a cassina, però con la medicina barriere di barriere zoolettico. Mi ha aiutato a pure senza di lui che questa medicina. C'è lì un bus, però veniva non bene. Quell'anno lì, non mi ricordo quanto tempo fa, era pieno. Mi pare che era 94-95, una cosa del genere. Ma io ero al sacco di Pascone e mi ero incoricato a farci fuori, no? Per un blocchetto mezzo a farci fuori. Più un muro, tutto il muro in giro della veranda, un 4 mesi che era sul gesto ricato, si stipone 30 bocche di crocchette che la si ha, si paria verricciato da canto miniera, ha già cominciato a bruciare, non dico niente io, o sino, credo che ha paretti, certo, ha paretti, da poi fa via un, a dentro lo Pascone, no, tra un muro di confine, e lo Pascone, vede roba di Zauri, lacrimi. Capita, commenta, ci muovi tu che ci trovi, ne scrivi tutta questa roba, tutta. Ma sai la trecca che per attaccare che c'è da una vera tu? E mi dà piacere tutta la campagna, cazzo. Invece da per un litro che l'ha già avuto, se fatti vedere le rotte di mio cugnato, di grosso, una è nata all'acqua, 30 rubascone. A giudizio c'è il bucciale a vedere se viene ibis e non ha sola, era pieno, eh? Già preso il cannello, ha cominciato prima ha bruciato così con il cannello, dopo le sta giù con su il gasolio è nata che si come là giù la gatti, dopo un mese così gli ha bucati tutti i muschi per all'unito proprio i ghibi ma se canta venire La voce sua non l'ha fatta, grazie, e sta tranquillo che non l'ha fatta, non si può dare, però l'ha fatta la voce sua, ha capito? E commenti l'ammazza, e fa un merdano non vede nulla, assolutamente, perché gli ammazza pure la gloria ammazza. Lo so, ma se vuoi venire talmente tante, allora prima già assiso il cannello, ha giocato una idea curata di così, e dopo ha giocato quello che sono di rugaso, gli ha giocato tutti in alto la gomma, la carava nelle altre gomme, con un umano con la bara, l'ha già stata un po' careggiata e si filtrava buio latte sotto, no, coprì. Adesso quando gli avevo fatto la sera andrò in Iran e tutti stai chiste. Maledetta è maledetta che te prima di entrare a campagna per imbonire lì si fa l'impresa dell'affatta anche se no la, se, poi brincava il muro ma la giuccia non stava attento il muro, capito? Poi poi lì si fa l'abbia sempre si fa in macchina mi impresciava dell'affatta e lo si attaccava adesso, capito? E la mochisuia, vabbè grazie a là, mi devo fare la doccia. ci sentiamo magari eventualmente domani, dai, buon proseguimento, saluta Rosi, mi raccomando mi sicuriglio e preparo un piatto di soccorrenti. Eia, vabbè, da, buona doccia, buon tutto, a prossimina, domani, saluta tua moglie, ciao. Mi aspetta che ti saluta. Buonasera, saluta Rosi. Ehi, adesso vado dentro, gli do due pacchetti e gli dico la parte sua, se non mi chiudi la botta. Va bene, va bene. Anche, va diretti, chiudi amico. Ehi, inteso, va bene, se mi chiudi la botta me la biglio. Ciao, ci sentiamo domani, ciao, grazie. Ciao, ciao.